Ecco, Charles, voi che siete un grande intenditore, venite, vi faccio vedere una cosa. Dopodiché, ragazzi, vi chiederò il permesso di lasciarvi in compagnia un istante, mentre vado a infilarmi un frac. D'altronde, penso che Orian vi raggiungerà presto. E mostrò a Swan il suo Velasquez. Ma mi sembra di conoscerlo, osservò Swan con una smorfia da persona sofferente per la quale parlare già una fatica. È possibile, disse il duca, impensierito dal fatto che l'intenditore tardasse tanto a esprimere la propria ammirazione. L'avrete visto in casa di Gilbert. Ah, è vero. Ora ricordo. Cosa pensate che sia? Ebbene, se era in casa di Gilbert è probabilmente uno dei vostri antenati, rispose Swan con un misto di ironia e di deferenza nei confronti di una grandezza che gli sarebbe parso scortese e ridicolo ignorare, ma di cui, per buon gusto, preferiva parlare solo in falsetto. Certo che lo è, disse rudemente il duca. È Boson, non so più che numero dei Germant, ma di questo me ne infischio. Sapete che non sono feudale come mio cugino. Ho sentito fare il nome di Rigaud, di Mignard, addirittura di Velasquez, aggiunse, fissando Swan con uno sguardo fra d'inquisitore e di seviziatore per cercare di leggergli nel pensiero e al tempo stesso di influenzarne il verdetto. Insomma, concluse, perché quando era indotto a provocare artificialmente un'opinione che gli stava a cuore, aveva la facoltà, in un batter d'occhio, di crederla emessa spontaneamente. Coraggio, bando ai complimenti. Pensate che sia uno dei padreterni che ho nominati? No, fu la risposta di Swan. Ma allora? Io in fin dei conti non ci capisco niente. Non sta a me decidere di chi sia questa crosta. Ma voi, un amatore, un esperto in materia, a chi l'attribuite? Swan esitò solo un attimo davanti a quel quadro che, visibilmente, trovava orripilante. Al malanimo, rispose ridendo, mentre il duca non riusciva a reprimere un moto di stizza. Quando gli fu passata? Siate gentili, aspettate, Orian, è cosa di un istante. Io vado ad infilarmi la mia giacca da pinguino e torno subito. Farò dire alla mia brava consorte che la state aspettando tutti e due. Mi intrattenni un po' con Swan sull'affare Dreyfus e gli chiesi come mai tutti i Germant fossero antidreyfusisti. Prima di tutto perché, nel fondo, sono tutti antisemiti, mi spiegò Swan, che pure sapeva per esperienza che alcuni non lo erano, ma, come tutti gli uomini appassionatamente attaccati a un'opinione, preferiva pensare, se certuni non la condividevano, che fosse per qualche ragione preconcetta, per un pregiudizio contro il quale non c'era niente da fare, piuttosto che per ragioni su cui era possibile discutere. D'altra parte, giunto prematuramente al termine della sua vita, come una bestia stanca di essere pungolata, esecrava quelle persecuzioni e tornava all'ovile religioso dei padri. «Quanto al principe di Germant, dissi, che sia antisemita è vero, me l'hanno assicurato». Oh, quello, non se ne parla neppure. Lo è al punto che quando era ufficiale ha preferito tenersi un mal di denti feroce, spaventoso, piuttosto che farsi curare dall'unico dentista della regione che era ebreo. E più tardi ha lasciato bruciare un'ala del suo castello dove era scoppiato un incendio, perché avrebbe dovuto chiedere delle pompe al castello vicino che è de Rothschild. Per caso andate da lui stasera? Sì, mi rispose, anche se sono molto stanco, ma mi ha mandato un biglietto per avvertirmi che doveva dirmi qualcosa. Sento che nei prossimi giorni starò troppo male per andarci o per riceverlo. Mi metterei in agitazione. Preferisco sbrigare subito la faccenda. Il duca di Germant, però, non è antisemita. Mi sa che lo è dal momento che è antidreyfusista, replicò Swan senza accorgersi della petizione di principio. Ciò non toglie che mi dispiaccia d'aver deluso quell'uomo. Che cosa dico? Quel duca, non ammirando il suo preteso mignard o cos'altro diavolo fosse. Ma la duchessa di Guermantes, ripresi tornando all'affare Dreyfus, lei è intelligente, no? Oh, sì, è incantevole. Secondo me lo era ancora di più quando si chiamava principessa di Lom. La sua intelligenza ha preso un non so che di più spigoloso. C'era più tenerezza nella giovane grandama. Ma alla fin fine, giovani o meno giovani, uomini o donne, che volete? Tutta quella gente è di un'altra razza. Non si hanno impunemente 1000 anni di potere feudale nel sangue. Naturalmente, loro credono che questo non c'entri per nulla con la loro mentalità. Robert de Saint-Lieu comunque è dreyfusista. Ah, meno male, anche perché, come saprete, sua madre è molto anti. Me l'avevano detto, ma non ero sicuro. Mi fa tanto piacere. Non mi stupisce, è intelligente, questo vuol dire molto. Il dreyfusismo aveva reso Swann straordinariamente ingenuo, imprimendo al suo modo di pensare un impulso, una deviazione ancora più notevoli di quanto non avesse fatto un tempo il suo matrimonio con Odette. Questo nuovo declassamento era, in realtà, una riclassificazione e poteva solo restituirgli dignità, poiché lo rimetteva sulla strada che era stata dei suoi e dalla quale aveva tralignato in seguito alle sue frequentazioni aristocratiche. Eppure, proprio nel momento in cui, grazie agli elementi ereditari della sua ascendenza, gli era dato scorgere così lucidamente una verità ancora nascosta ai mondani, Swann si rivelava vittima di una comica cecità. Sottoponeva ogni sua ammirazione e ogni suo disprezzo alla prova di un nuovo criterio, il dreyfusismo. Che l'antidreyfusismo di Madame Bontemps gliela facesse giudicare una stupida, non era più stupefacente del fatto che, quando si era sposato, l'avesse giudicata intelligente. Non era molto grave nemmeno che la nuova ondata avesse travolto anche i suoi giudizi politici, facendogli dimenticare d'aver trattato da venduto, da spia dell'Inghilterra, era un'assurdità del giro Guermantes, quel Clemenceau che adesso sosteneva d'aver considerato sempre una limpida coscienza, un uomo d'acciaio, come Cornelli. No, non posso avervi detto nulla di diverso, state confondendo. Ma, oltrepassando i giudizi politici, l'ondata ribaltava in lui anche i giudizi letterari e il modo stesso di esprimerli. Barré aveva completamente smarrito il talento e persino le sue opere giovanili erano debolucce, si stentava a rileggerle. Provate, non riuscirete ad arrivare sino in fondo. Che differenza rispetto a Clemenceau. Personalmente non sono certo anticlericale, ma come non rendersi conto che confrontato con lui Barré non ha nervo? È un grandissimo saggio, il vecchio Clemenceau, e come domina la lingua. D'altra parte, che diritto avrebbero avuto gli antidreyfusisti di criticare queste follie? Secondo loro, si era dreyfusisti perché si era di origine ebrea. Se un cattolico praticante come Saniette imbocava anche lui la revisione, era perché Madame Verdurin, che si comportava da radicale sfegatata, lo aveva plagiato. Lei ce l'aveva soprattutto con i baciapile. Saniette, più stupido che cattivo, non capiva il torto fattogli dalla padrona, e a chi avesse obiettato che Brichot era anche egli amico di Madame Verdurin, pur essendo membro della patrie française, si poteva replicare che lui, però, era più intelligente. «Lo vedete qualche volta?» domandai a Swann riferendomi a Saint-Lieu. «No, mai. Mi ha scritto pochi giorni fa perché chiedessi al duca di Mouchy e a qualcun altro di votare per lui al jockey, dove peraltro è entrato a vele spiegate. Nonostante l'affare, nessuno ha sollevato la questione. Del resto vi dirò che, dopo tutta questa storia, non ci metto più piede là dentro. tornò il signor di Guermantes e subito dopo comparve la duchessa, tutta pronta per uscire, alta e superba, in un abito di raso rosso con la gonna bordata di pagliette. Fra i capelli aveva una lunga piuma di struzzo tinta di rosso porpora e sulle spalle una sciarpa di tulle dello stesso colore. «Ottima idea, quella di far foderare di verde il cappello», disse la duchessa, alla quale non sfuggiva nulla. «D'altronde, tutto in voi, Charles, è bello, quello che avete indosso come quello che dite, che leggete, che fate». Swann, intanto, quasi non l'ascoltasse, osservava la duchessa come avrebbe fatto con un quadro d'autore. Poi ne cercò lo sguardo abbozzando, con la bocca, la smorfia che significa «accidenti». Madame de Guermantes scoppiò a ridere. «La mia toilette vi piace, ne sono felice. Ma a me no, non piace mica tanto», continuò facendo il broncio. «Mio Dio, che noia vestirsi, uscire quando si starebbe così volentieri a casa. Che splendidi rubini! Ah, mio caro, dolce Charles, si vede che voi almeno ve ne intendete. Non siete come quel brutto di Montserfel che mi ha chiesto se erano autentici. Devo dire che non ne ho mai visti di altrettanto belli. Sono un regalo della Granduchessa. Per i miei gusti sono un po' troppo grossi. Fanno un po' bicchiere di Bordeaux pieno fino all'orlo. Ma li ho messi perché stasera da Marie Gilbert vedremo la Granduchessa», aggiunse Madame de Guermantes senza sospettare che con questa affermazione distruggeva quelle del duca. «Che succede stasera dalla principessa?» chiese Swann. «Niente di speciale», s'affrettò a rispondere il duca, credendo, sulla base di quella domanda, che Swann non fosse invitato. «Ma come, Bazin? Se hanno convocato il mondo intero, sarà un massacro, una noia mortale. La sola cosa bella», aggiunse lanciando a Swann uno sguardo di delicata intesa, «se non scoppia il temporale che c'è per aria, saranno quei meravigliosi giardini. Li conoscete anche voi. Ci sono stata un mese fa, quando i lillà erano fioriti. Non si può neanche avere un'idea di cosa fosse di bello. E poi la fontana, insomma, è proprio Versailles dentro Parigi». «Com'è la principessa?» domandai. «Ma dovreste saperlo, l'avete vista qui. È bella come il sole ed è anche un po' idiota. Graziosissima, a dispetto della sua statura teutonica. Una donna tutta cuore e gaff». Swann era troppo fine per non accorgersi che Madame de Guermantes in quel momento stava cercando di fare dello spirito Guermantes a buon mercato, giacché si limitava a riproporre, in una forma più andante, qualche sua vecchia battuta. Ciò nonostante, per mostrare alla duchessa che capiva la sua intenzione di essere divertente, e come se lo fosse stata veramente, fece un sorriso un po' forzato, mettendomi, con quel particolare genere di insincerità, nello stesso imbarazzo che provavo un tempo sentendo i miei genitori parlare col signor Vinteil della corruzione di certi ambienti, mentre sapevano benissimo che a Montjuvin ne regnava una assai peggiore, o semplicemente sentendo Le Grandin in società usare le sue espressioni più sfumate per degli sciocchi, scegliere gli epiteti più raffinati, pur sapendo perfettamente che il pubblico ricco ed elegante, ma illetterato cui si rivolgeva, non avrebbe potuto capirli. «Ma via, Orian, cosa state dicendo?» intervenne il signor di Guermantes. «Stupida Marie! Ha letto tutto, è musicale come un violino!» «Mio povero, caro Bazin, siete proprio un bambino appena nato. Come se non si potesse essere tutto questo e contemporaneamente anche un po' idioti. Idiota del resto eccessivo. No, è solo un po' nebulosa. È Assia Darmstadt, Sacro Romano Impero e Pigolii. Basta la sua pronuncia a snervarmi. Ma del resto, ammetto che è un'incantevole pazzerella. Intanto, quella sua idea di scendere dal suo trono tedesco per sposare, molto borghesemente, un privato cittadino, è vero che se l'è scelto bene. Ma già, che sciocca! disse voltandosi verso di me. Voi non conoscete Gilbert? Ve ne darò un'idea. Una volta si è ammalato perché avevo lasciato un biglietto da visita a Madame Carnot. Ma Charles, tesoro, soggiunse per cambiare discorso, vedendo che la storia del biglietto da visita a Madame Carnot sembrava contrariare il signor di Guermantes. Non mi avete ancora mandato la fotografia dei nostri cavalieri di Rodi, che io amo tramite vostro e con i quali ho tanta voglia di fare conoscenza.